Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, un saluto a tutti voi e anche l'augurio di un buon anno, visto che non abbiamo ancora avuto modo di farci questo augurio. Apriamo il nuovo anno anche noi in sintonia con il percorso che abbiamo già avviato oramai da 2 anni, questo percorso di lezio continua sul Vangelo di Marco. Siamo arrivati al capitolo 14, quindi invito, come è nostro solito, chi è nella possibilità di farlo, di prendere un'edizione della Bibbia o dei Vangeli e di seguire questa trasmissione avendo sotto gli occhi il testo del Vangelo. Come sempre invochiamo anche l'aiuto dello Spirito Santo perché la condivisione della parola di Dio possa toccare non solo la nostra testa, le nostre conoscenze teoriche, non sia questo momento un momento di condivisione astratta, ma possa entrare nel cuore e plasmare la nostra vita. Chiedo il sostegno della preghiera questa sera soprattutto a quanti di voi stanno vivendo dei momenti di difficoltà nelle relazioni, di difficoltà relazionale. Penso ad esempio a quei coniugi che magari fanno fatica, stanno vivendo un momento di fatica relazionale con il proprio marito, con la propria moglie, con il proprio compagno. Oppure chiedo il sostegno a quei genitori che magari stanno vivendo un momento di fatica nella relazione con i propri figli. O ancora a quei religiosi e a quelle religiose che possono vivere un momento di fatica con i propri superiori. Oggi, non a caso, il testo su cui ci soffermeremo, vedrà proprio al suo centro la figura di un Gesù che si deve misurare con i 12 non del tutto pronti a vivere, a condividere fino in fondo la comunione con Lui. Siamo anche nella cornice della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, ecco perché le persone a cui chiedo aiuto per rendere feconda questa trasmissione sono soprattutto quelle persone che vivono la fatica della comunione. Quindi riprendiamo il nostro discorso, siamo nell'atto che precede il grande racconto del mistero pasquale, il cosiddetto sesto atto narrativo del Vangelo di Marco, che copre sostanzialmente i primi 50 versetti del capitolo 14. La volta scorsa dicevamo che questo capitolo si struttura attorno a 3 banchetti. C'è il banchetto di Betania, che abbiamo commentato nell'ultima trasmissione, poi c'è il banchetto dell'ultima cena, che commenteremo oggi, e poi c'è l'ultimo banchetto, un banchetto simbolico ma significativo, che è quello del Getsemani, che commenteremo la prossima volta. Il testo quindi su cui ci soffermeremo questa sera è il testo che va dal versetto 12 al versetto 31 del capitolo 14. Lo suddividiamo in 3 parti, cominciamo a leggere i primi versetti, vale a dire i versetti dal 12 al 16. Marco scrive così: nel primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Egli inviò 2 dei suoi discepoli e disse loro: andate in città, vi verrà incontro un uomo che porta un'anfora d'acqua. Seguitelo, e là dove questi entrerà, dite al padrone di casa: il maestro chiede, dov'è la mia sala in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà una stanza al piano superiore, grande, cosparsa di cuscini, già pronta. La preparate per noi. I discepoli uscirono, andarono in città, trovarono come egli aveva detto loro e prepararono per la Pasqua. Bene, questa scena che prepara il secondo grande banchetto, che è sostanzialmente la cena pasquale, è una scena che è molto simile a un altro episodio del secondo Vangelo, del Vangelo di Marco, ed è l'episodio dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Se ricordate, anche in quell'occasione Gesù aveva mandato avanti a sé i suoi discepoli per cercare il giumento con cui Gesù sarebbe arrivato a Gerusalemme, e i discepoli vanno nella città, trovano come Gesù aveva detto loro e portano appunto il giumento da Gesù. È una scena che richiama quell'episodio, come nel momento dell'ingresso a Gerusalemme Gesù si stava preparando per un passo importante che sarebbe stato decisivo per la sua vita. Gesù entra vivo a Gerusalemme ma uscirà per essere poi messo a morte, così Gesù entra nella Pasqua di quell'anno, nelle grandi celebrazioni pasquali. Gesù entra nelle celebrazioni pasquali in un modo molto particolare, entrerà vivo e ne uscirà morto, cioè ne uscirà con il sacrificio pieno di sé. Una morte ovviamente che si dischiuderà alla risurrezione, ma che richiede il dono totale di sé. Questo permette quindi una sorta di accostamento tra i due episodi. Vorrei attirare però la vostra attenzione soprattutto su due espressioni che vengono utilizzate in questa cornice che introduce la celebrazione della cena pasquale. Prima di tutto l'espressione iniziale. Ci viene detto che nel primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero. Notate come la sottolineatura viene posta sull'immolare la Pasqua. Perché viene utilizzata questa espressione? Perché era uso allora, nel primo secolo, aprire le celebrazioni pasquali con l'immolazione, cioè il sacrificio dell'agnello pasquale al Tempio. Questo era un rito che esisteva fin dai tempi del re Giosia, quindi fin dal VI-VII secolo avanti Cristo. L'agnello pasquale veniva consumato nei cortili esterni del Tempio, secondo i libri delle cronache, e ai tempi di Gesù si poteva consumare, visto la grande affluenza di pellegrini, l'area in cui era possibile consumare l'agnello si estendeva a tutta Gerusalemme e anche ad alcuni suoi sobborghi. Quello che è strano è che ci viene detto che l'immolazione della Pasqua avveniva nel primo giorno degli azimi, stando a Marco. La cosa è strana perché noi sappiamo che il rito comune prevedeva prima l'immolazione dell'agnello pasquale e poi le celebrazioni, i cosiddetti giorni degli azimi, che iniziavano praticamente il giorno successivo all'immolazione, al sacrificio dell'agnello pasquale. Probabilmente alcuni studiosi ritengono che i tempi di Gesù, siccome l'affluenza di pellegrini era numerosa, gli agnelli pasquali da sacrificare tanti, non era possibile fare questa immolazione per tutte le famiglie in un solo momento, in poche ore, in un giorno, allora secondo alcuni studiosi erano necessarie due giornate per l'immolazione dell'agnello pasquale, e allora poteva succedere che il primo giorno degli azimi coincideva con l'immolazione della Pasqua. Quello che è curioso è che l'immolazione dell'agnello pasquale viene evocata dall'Evangelista ma non da Gesù, cioè Gesù invia i suoi discepoli a Gerusalemme per allestire una stanza ma non per compiere il rito del sacrificio dell'agnello pasquale. Quello che è curioso nella narrazione di Marco è che di agnello pasquale non se ne trova traccia. Abbiamo, lo vedremo subito dopo, avremo menzione del pane che viene spezzato, del calice che viene condiviso, ma non si fa nessuna menzione dell'acquisto di un agnello da portare al Tempio per sacrificarlo. Ecco perché viene spontaneo associare Gesù a quell'agnello pasquale. L'assenza dell'agnello nella cena pasquale, che sembra essere evocata dall'Evangelista, porta il lettore ad associare Gesù all'agnello pasquale, per cui non è un capo di bestiame che viene offerto a Dio, ma è Gesù che offre se stesso, offre il dono della sua vita come elemento di unità all'interno del suo popolo. Quindi l'immolazione della Pasqua viene qui evocata proprio per sottolineare come un gesto che era un gesto rituale sta prendendo forma, sta prendendo carne nella vita stessa di Gesù. Questa cosa trova conferma da una seconda espressione che troviamo in questo brano ed è un'espressione ricorrente, l'espressione mangiare la Pasqua. Se avete ascoltato con attenzione, al versetto 12 i discepoli chiedono a Gesù: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? E poi nuovamente al versetto 14 Gesù fa chiedere: dov'è la mia sala in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Quindi c'è una sottolineatura molto forte parla della Pasqua come un rituale non da celebrare, ma un rituale da mangiare, quasi assimilare facendolo proprio. Ora, il rituale della Pasqua prevedeva il sacrificio dell'agnello, la memoria di tutto quello che era avvenuto durante il cammino dell'Esodo e il famoso canto dei salmi alleluiatici, il grande Allel, come invocazione solenne a Dio sostegno e di soccorso del suo popolo. Ora, il fatto che questa scena pasquale venga identificata con l'espressione mangiare la Pasqua è un'ulteriore sottolineatura che quello che Gesù sta vivendo non è solo un rito, ma è qualcosa che lui vive in prima persona. C'è il sacrificio di sé, c'è un cammino esodale che coinvolge la sua persona e la sua comunità e nello stesso tempo c'è una grande invocazione a Dio, che è quella espressa dai cosiddetti salmi alleluiatici, dal cosiddetto grande Allel. Quindi quello che i discepoli stanno preparando per Gesù è veramente un momento di grande trasformazione. La comunità sta entrando nelle celebrazioni pasquali in un modo che sarà diverso da quello in cui usciranno, cioè in quella notte pasquale si compie una vera e propria trasformazione di Gesù e dei suoi. E il lettore verrà a conoscenza ben presto di che cosa questo comporta, perché la comunità sta entrando nella grande pagina della passione, della morte e della risurrezione di Gesù. Tutto il racconto del mistero pasquale che Gesù ha già preannunciato durante il suo ministero pubblico inizierà proprio durante la notte che seguirà la cena pasquale, ma nella cena pasquale tutto questo viene prefigurato. Oltre a queste due espressioni, in questo primo brano c'è anche un segno curioso, un indizio particolare, che è l'indizio che Gesù dà ai suoi. Come quando era entrato a Gerusalemme, l'indizio è quello di trovare un asino attaccato ad una porta sulla strada, in questo caso l'indizio è un altro: andate in città, vi verrà incontro un uomo che porta un'anfora d'acqua, seguitelo, là dove questi entrerà, dite al padrone di casa, eccetera. Quindi il segno che i discepoli si trovano davanti a sé è il segno di un uomo che porta un'anfora d'acqua. Perché questo segno è così particolare da attirare l'attenzione dei discepoli? Perché normalmente a Gerusalemme e nelle città del primo secolo, nei città e villaggi del primo secolo, il compito di andare al pozzo per attingere l'acqua era un compito tipicamente femminile. Il fatto che i discepoli si incontrino con un uomo che porta un'anfora d'acqua diventa quindi qualcosa di particolare, di curioso. Alcuni individuano in questo segno una certa vicinanza tra Gesù e una comunità, un gruppo di fedeli particolari del primo secolo, il cosiddetto gruppo degli Esseni. Gli Esseni in genere vivevano in alcune parti isolate, alcune delle loro comunità vivevano addirittura in parti deserte. Altri però membri di questo gruppo vivevano un po' ai confini delle città principali e gli studiosi ritengono che dove attualmente i pellegrini che vanno in Terra Santa visitano il cosiddetto cenacolo, dove si ritiene si sia svolta l'ultima cena. Quello era anche il quartiere in cui nel primo secolo viveva una piccola comunità essena. Nella comunità essena gli uomini compivano questo tipo di servizio, cioè quello di andare al pozzo e caricarsi, portare nella propria comunità l'acqua. Tra l'altro la comunità essena aveva anche una visione nei confronti del Tempio che relativizzava molto la struttura politica e religiosa del Tempio, per invece riscoprirne la sua spiritualità profonda, cioè il senso del Tempio come luogo di incontro con Dio. Ora, questo pensiero è molto vicino al pensiero di Gesù, soprattutto a quel pensiero che Gesù ha manifestato nei capitoli che precedono questa scena, i capitoli che vanno dall'undicesimo al tredicesimo, dove ci sono i grandi discorsi di Gesù nei confronti del Tempio di Gerusalemme. Gesù aveva detto chiaro e tondo che di quel Tempio che colpisce l'occhio del visitatore con le sue belle pietre, non resterà pietra su pietra, ma non aveva rinnegato il significato del Tempio, cioè quello di essere un luogo di preghiera e luogo di incontro con Dio. Ora, questa tipologia di pensiero è una tipologia di pensiero tipica della comunità essenica, per cui a partire da questo alcuni studiosi ritengono che Gesù fosse particolarmente vicino a questa comunità. Quindi notate come la scena che ci introduce nel secondo grande banchetto del capitolo 14 è una scena che evidenzia sostanzialmente come elemento chiave l'importanza di mangiare la Pasqua, cioè la Pasqua a cui Gesù si prepara insieme ai suoi discepoli non è qualche cosa di, non è un rito esterno, non è un rito puramente ripetitivo di quello che i padri avevano fatto in passato, ma è qualcosa che coinvolge i dodici e Gesù in modo vitale e viscerale. Ecco, prima di continuare lasciamo un breve stacco musicale in modo da avere possibilità di rileggere questi quattro versetti e di notare come questo mangiare la Pasqua sia veramente centrale nel testo ed è anche un messaggio praticamente rivolto a noi. Noi a volte rischiamo di dimenticare nella celebrazione dell'Eucaristia settimanale o quotidiana questo aspetto. Celebrare l'Eucaristia non è solo un rito che si celebra ogni sette giorni o ogni giorno, ma è qualcosa che ci tocca visceralmente, nel quale entrare visceralmente, proprio come viene espresso in questi versetti. Non si tratta di dire la messa o di andare a messa, si tratta di mangiare la Pasqua, che è tutta un'altra cosa, perché significa entrare in un modo e uscire totalmente trasformati da quello che viene celebrato, una grande sfida di cui il Vangelo si fa portavoce e provocatore. Ma lasciamo un breve stacco musicale prima di continuare e capire nel testo cosa significa questa espressione. Dopo questa introduzione il testo continua con il racconto proprio di quello che avviene durante la cena pasquale. Leggiamo allora i versetti che vanno dal 17 al 25 in cui viene proprio precisato lo svolgimento della cena pasquale. Giunta la sera, Gesù arrivò con i dodici. Mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: «In verità vi dico, uno di voi mi tradirà, uno che mangia con me». Essi cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno per uno: «Non sono io, vero?». Egli allora rispose loro: «Uno dei dodici, uno che intinge con me nel piatto. Sì, il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto a suo riguardo. Ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Sarebbe stato meglio per lui non essere mai nato». Mentre mangiavano, preso del pane, pronunciata la benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: «Prendete, questo è il mio corpo». Preso un calice, pronunciato il ringraziamento, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse: questo è mio sangue, il sangue dell'alleanza, versato per molti. In verità vi dico, non berrò più del frutto della vite fino a quel giorno, quando lo berrò nuovo nel regno di Dio. Ecco, questi sono i versetti che raccontano nel dettaglio come si svolge il momento centrale dell'ultima cena di Gesù, la cena tra Gesù e i dodici. Ora, in questo episodio emergono tre aspetti che meritano la nostra attenzione. Il primo è l'annuncio del tradimento, il secondo è il segno del pane, il terzo è il segno del calice. Cominciamo dal primo elemento, quello del tradimento. Cioè, la cena pasquale inizia diversamente da altri racconti. In Marco tutto è preceduto dall'annuncio del tradimento di Giuda. Quindi, questo significa che il traditore, che tra l'altro nel Vangelo di Marco non viene menzionato per nome, lo vedremo subito, il traditore è assiso alla cena pasquale. E Gesù fa dono di sé della sua vita nel momento in cui è ben cosciente del tradimento. Quindi questo dà al dono di sé un valore ancora più grande. Gesù non si sta donando, non si sta consegnando solo nelle mani dei discepoli che sono fedeli, si sta consegnando anche nelle mani di colui che lo tradisce, di colui che è uno dei dodici. Non si sta donando solo per i buoni, si sta donando per tutta la sua comunità, in tutte le sue componenti, luminose e oscure. Ed è qui che l'amore tocca il vertice, perché l'amore viene riversato non solo nelle mani di chi lo accoglie, ma anche di chi lo rifiuta, peggio, anche di chi non solo lo rifiuta, ma lo rinnega e lo tradisce. Quindi il mangiare la Pasqua inizia con un annuncio di Gesù: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà, uno che mangia con me. Se voi mettete a confronto il racconto della cena pasquale, come la troviamo in Marco, e quello che noi troviamo in Matteo, noterete due atteggiamenti totalmente diversi. In Marco non c'è nessuna volontà da parte dell'evangelista di puntare il dito su una persona precisa. Tutto resta sfocato, come se il traditore potesse essere in quel momento ciascuno dei dodici. Marco non ha nessun desiderio nel suo racconto di aiutare il lettore a capire chi è il traditore. Il traditore potrebbe essere uno qualunque della comunità. Tanto vero che le espressioni con cui viene definite, il traditore sono rivolte a tutti i dodici. Notate, viene detto uno di voi, uno che mangia con me. Tutti i dodici stanno mangiando con Gesù. La domanda che fanno: non sono io, vero? Cioè, tutti vogliono non essere quella persona, però tutti fanno questa domanda. E Gesù risponde dicendo: uno dei dodici, uno che intinge con me nel piatto. Teniamo presente che la cena di una comunità a quel tempo si svolgeva in un piatto unico, a cui tutti poi intingevano in quel piatto unico il proprio pane. Quindi, ma il piatto di riferimento da cui si attingeva era uno solo, perché era il gesto, il piatto che indicava la comunione tra i partecipanti. Quindi non è che c'è solo Giuda che intinge nel piatto, sono tutti i dodici che intingono nel piatto. Quindi la sottolineatura da parte dell'evangelista è che in questo momento il traditore assumerà un volto, che è il volto di Giuda, ma tutti sono dei potenziali traditori nella cornice della sala alta, della sala dell'ultima cena. In questo contesto, ecco gli altri due segni che dicono il dono che Gesù fa di sé. Il primo segno è quello del pane. Notiamo cosa succede. Mentre mangiavano, preso del pane, pronunciata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Attenzione, Gesù non consegna ai discepoli un pane intero. Prima spezza il pane e poi consegna un pane spezzato ai suoi discepoli. Guardate che questo gesto non è un gesto secondario, cioè i discepoli prendendo un pane spezzato nelle proprie mani non ricevono solo un pezzo di qualcosa di commestibile, ma ricevono una logica, che è la logica di colui che si spezza per l'altro. Quindi tendere le mani e accogliere quel pane spezzato non è solo un gesto di condivisione o di comunione, certo è un gesto di condivisione e di comunione, ma anche un gesto che indica che i dodici sono disponibili a entrare nella medesima logica che Gesù sta vivendo, cioè la logica di spezzarsi per l'altro. Quello a cui i discepoli accettano di partecipare è quello di entrare nella logica di un pane spezzato. E Gesù commenta questo gesto nel momento in cui i discepoli lo ricevono dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Anche qua il termine che viene utilizzato in greco per indicare il corpo non è sarx, che indica la carne, no? Non è la fisicità del corpo. Gesù non sta dicendo: questo è il mio corpo fisico, eh? Non sta dicendo solo questo. Gesù sta dicendo che quello è il suo modo di vivere tutte le relazioni. Quel pane ovviamente è lui, ma nello stesso tempo rappresenta anche uno stile di vita, un modo di vivere. Soma, il termine che viene utilizzato e che qui in greco e che qui viene tradotto con corpo, è un termine molto ampio nella sua valenza semantica, nel suo significato. Non significa solo la fisicità del corpo, ma indica anche l'identità di una persona, quindi tutto quello che con il corpo noi costruiamo, facciamo, con il corpo noi tessiamo relazioni, con il corpo noi entriamo in contatto con il mondo che ci circonda. Bene, quel gesto che Gesù ha compiuto, quello di spezzarsi e di donarsi ai suoi discepoli, è il suo modo di vivere la propria identità e le proprie relazioni. E i discepoli che ricevono questo pane spezzato da parte di Gesù entrano in questa stessa logica. Quindi Gesù sta coinvolgendo i suoi in questa stessa logica, senza dimenticare che ha appena detto che uno di loro lo tradirà. Quindi Gesù sta in modo incondizionato donandosi ai suoi discepoli e dicendo indirettamente ai suoi discepoli che anche loro sono in grado di vivere con lui questa dimensione così esigente. Diverso invece è il modo in cui viene gestito il secondo segno, che è il segno del calice. Ci viene detto che, preso un calice, pronunciato il ringraziamento, lo diede loro e ne bevvero tutti. Notate, in questo secondo caso Gesù non compie prima un gesto sul calice, ma prima lo distribuisce ai suoi, tutti bevono, attingono a questo calice e poi dice: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza, versato per molti. In verità vi dico, non berrò più del frutto della vite fino a quel giorno quando lo berrò nuovo nel regno di Dio. Vale a dire, i dodici prima bevono, attingono a questo calice, incoscienti del significato che questo comporta. Forse pensano anche qua solo a un gesto di comunione, di condivisione. Ma dopo che loro hanno compiuto questo gesto, Gesù dà a quello che loro hanno vissuto in modo incosciente un valore molto più alto. Dice: questo è il sangue dell'alleanza versato per molti. Utilizzando l'immagine del sangue, Gesù si identifica con quell'agnello pasquale che non è stato menzionato in questi versetti e diventa lui il sigillo dell'unità tra Dio e il popolo. Colui che si carica su di sé il peccato del popolo, portandolo nuovamente in piena comunione con Dio. È il dono incondizionato di Gesù. Perché dico il dono incondizionato di Gesù? Perché se fosse stato condizionato, Gesù prima avrebbe spiegato il significato e poi avrebbe dato il calice. Invece avviene l'esatto contrario, proprio perché questo dono da parte di Gesù è un dono gratuito e totale. Questo dono gratuito viene prima offerto e poi spiegato nel suo significato. Il sangue è un sangue dell'alleanza versato per molti. Qui viene utilizzata questa espressione che in greco sta per hyperpollon e che traduce un'espressione ebraica che sarebbe indicata, tradotta con rabbin nella lingua ebraica del tempo, dove i molti indicano le moltitudini. È un'espressione che sta ad indicare la totalità delle persone, non la selezione di alcuni da cui altri vengono esclusi. E la prova di questa totalità è il fatto che coloro che ricevono questo dono sono tutti i 12 comprensivi di colui che sta per tradire e di cui non ci viene, sottolineo, non ci viene rivelata in questo momento l'identità da parte dell'evangelista. Ecco, quindi in questa scena madre che è centrale, che racconta il momento pasquale per eccellenza di Gesù, che prepara il grande mistero della sua passione, morte e risurrezione, i messaggi forti sono sostanzialmente questi tre. Il primo messaggio è quello che Gesù si dona incondizionatamente anche a coloro che lo stanno per tradire. Con una convinzione, l'amore vince anche sul tradimento e addirittura l'amore può trasformare il tradimento in qualcosa di altro. Ciò lo vedremo all'opera, soprattutto con Pietro. Il secondo messaggio fondamentale è il gesto di quel pane. Il pane viene prima spezzato e poi consegnato per far entrare i 12 in una logica che è la logica che Gesù sta vivendo. Terzo messaggio, questo dono è totalmente gratuito, tanto vero che Gesù prima fa attingere in modo incosciente i 12 e poi spiega il grande significato del dono di sé. Lasciamo ancora uno stacco musicale in modo da rileggere ancora questi versetti e interiorizzare questo forte messaggio, un messaggio che ci viene offerto ogni volta che noi partecipiamo all'Eucaristia e che spesso rischia di passare così senza la nostra piena coscienza di quello che stiamo vivendo e celebrando. Allora, abbiamo visto come il momento centrale del banchetto pasquale si svolge all'insegna dell'annuncio del traditore da un lato e i due segni del pane e del vino. Tutto continua e si conclude questo secondo banchetto con un'altra scena in cui Gesù precisa che il traditore non è uno, ma sono tutti i 12. Ascoltiamo questi versetti conclusivi di questo secondo banchetto, cioè i versetti 26-31 di questo capitolo. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli ulivi. Gesù disse loro: «Tutti voi sarete scandalizzati, poiché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse, ma dopo essere risuscitato vi precederò in Galilea». Allora Pietro gli disse: «Tutti gli altri potranno anche scandalizzarsi, ma non io». Gli rispose Gesù: «In verità ti dico, proprio tu, oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte». Egli però continuava a dire con maggior forza: «Se anche fosse necessario morire con te, no, non ti rinnegherò». Così dicevano anche tutti gli altri. Ecco, questo è il modo in cui si conclude il banchetto pasquale, la cena di Gesù con i suoi discepoli, l'ultima cena, si conclude con il canto dell'inno. Il canto dell'inno corrisponde proprio al canto dei salmi dell'Allel, in cui i salmi dal 113 al 117 del Salterio, che venivano cantati in occasione delle principali feste ebraiche, sono testi in cui si invoca la presenza del Signore nella propria storia. E subito dopo con una profezia di Gesù. Gesù disse loro: «Tutti voi sarete scandalizzati, poiché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse». Quindi non è una questione che interessa uno solo all'interno dei 12, uno sarà il traditore, ma lo scandalo coinvolge tutti. E che si debba passare dall'esperienza dello scandalo è fuori dubbio, ovvero che Gesù la evidenzia con un testo dell'Antico Testamento, un testo attinto dal profeta Zaccaria: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Questo sta scritto, quindi i discepoli non possono opporsi, perché questo è previsto nella logica della sapienza biblica. Questo dà una particolare forza alla profezia che Gesù fa, anche se completa questa profezia dicendo: dopo essere risuscitato vi precederò in Galilea. Quindi il fatto che provate scandalo non è qualcosa che vi esclude dalla comunione con me, no, quello che abbiamo appena vissuto nell'ultima cena vi dà garanzia che io vi aspetto e continuerete ad essere protagonisti del Vangelo, un Vangelo che si sta per compiere nella sua bellezza. Notiamo che il primo a reagire di fronte a tutto questo è Pietro. Pietro gli disse: tutti gli altri potranno anche scandalizzarsi, ma non io. Notate la reazione di Pietro. Da un lato si sottolinea in genere l'impulsività di Pietro, ma qua non è solo questione di impulsività. Qui Pietro tradisce due volte il suo maestro. Una volta perché praticamente non accetta la linea che è stata tracciata, no? Che è una linea di scandalo, di esperienza delle tenebre, un'esperienza difficile da un punto di vista personale. Il secondo però è anche un tradimento della comunità, perché Pietro esclude tutti gli altri e dice: tutti gli altri potranno anche scandalizzarsi, cioè gli altri si possono anche perdere, ma non mi interessa questo, ma non io. E Gesù rincara la dose, perché ripete per tre volte a Pietro che proprio tu, oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, quindi da un punto di vista temporale per tre volte viene precisato il momento del rinnegamento di Pietro, mi rinnegherai tre volte. Notiamo la resistenza ulteriore di Pietro. Pietro continuava a dire con maggior forza: se anche fosse necessario morire con te, no, non ti rinnegherò. E così dicevano anche tutti gli altri. Cioè il momento dello scandalo viene rifiutato non solo da Pietro, ma da tutti gli altri. Quindi quello che era l'annuncio fatto da Gesù già si sta concretizzando. Tutti rifiutano il passaggio delicato, difficile, doloroso dello scandalo a cui espone la via del discepolato, mentre questa via, questo momento di passaggio è necessario. I discepoli sono pronti a morire con Gesù, ma non sono pronti a farlo senza di lui, non sono pronti a farlo passando attraverso l'esperienza dello scandalo. Ed è ciò che il mistero di passione, morte e risurrezione di Gesù li metterà poi in grado di vivere. Ecco, questi versetti quindi ci portano a contatto con il secondo grande banchetto. Se nel banchetto di Betania abbiamo contemplato la volta scorsa la grande logica dello spreco che caratterizzava il dono di Gesù, nel secondo banchetto notiamo come il dono di Gesù è all'insegna della più grande gratuità e all'insegna di un simbolismo forte come quello del pane spezzato e del calice condiviso che diventa simbolo del sangue dell'alleanza, ma è anche un banchetto esigente, perché fa capire ai discepoli che entrare in questa logica non è facile, è una logica che siamo portati normalmente a rifiutare, perché accettare di essere rifiutati, rinnegati, di passare attraverso l'esperienza dello scandalo umanamente è una cosa impossibile. Siamo in grado di percorrere questa via esigente solo nel momento in cui al nostro amore si unisce l'amore che ha la misura dell'amore di Gesù, cioè un amore che è in grado di donarsi agli altri a 360 gradi. Ecco, cari ascoltatori, questo è il testo che questa sera volevamo condividere insieme. Ora la parola passa a ciascuno di voi. Come sempre dico nelle nostre trasmissioni, quello che è importante nella condivisione delle pagine di Marco non è solo il commento, la spiegazione che può fare il conduttore, questa è una parte, c'è una seconda parte importante che è costituita dalle vostre domande. E allora in questa seconda parte, nei prossimi 45 minuti, lo spazio è dato proprio a voi, perché ciascuno di voi possa esprimere una riflessione, una domanda, un interrogativo che ci permetta di continuare a scavare dietro queste pagine. Dietro queste pagine non sta solo la nostra identità cristiana, siamo al centro del messaggio teologico del Vangelo di Marco, ma sta anche il significato profondo del nostro discepolato e del nostro celebrare una volta alla settimana o tutti i giorni il grande mistero eucaristico, cuore e fonte della vita cristiana. Quindi la parola passa a voi. Lasciamo uno spazio musicale che è necessario proprio per ricevere e selezionare le telefonate in arrivo. Pronto, sono Mariella da Ragusa. Mi dica, Mariella da Ragusa, grazie per aver chiamato, mi dica. Sì, grazie a lei Don Giacomo per la sua spiegazione, è stata bellissima. Mi era rimasto solo un dubbio sulla parte in cui Gesù dice non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Perché dice in questo modo e cosa vuole intendere? Certo. La ringrazio per la sua spiegazione, arrivederci. Grazie. Grazie mille Mariella per questo interrogativo, perché ci permette effettivamente di sottolineare un aspetto del nostro testo. Il vino, il frutto della vite, rappresentava al termine delle celebrazioni pasquali il momento in cui colui che beveva al calice dava il segno del massimo compimento, della massima speranza, cioè di quella liberazione che avrebbe caratterizzato il cammino, cioè la Pasqua richiama il cammino dell'Esodo. L'Esodo è il percorso verso la terra promessa. Concludere le celebrazioni pasquali bevendo al calice del vino, ecco, era il segno che la terra promessa in qualche modo era già stata donata. Gesù in questo momento dice: io non berrò del frutto della vite fino a quel giorno, quando lo berrò nuovo nel regno di Dio. È un'evocazione, secondo gli studiosi, della risurrezione di Gesù, cioè il compimento di quel cammino di liberazione che questa Pasqua che Gesù sta celebrando con i suoi, sta inaugurando, si compie solo all'indomani dell'intero mistero, cioè solo quando il mistero di passione e morte si compie nella risurrezione. Solo in quel momento il mistero pasquale è completo, solo in quel momento Gesù berrà del frutto della vite nel regno di Dio. Quindi è un invito fatto anche alla comunità a vivere il mistero pasquale nella sua completezza, e questa completezza non è, non è terminata con la celebrazione della cena pasquale, ma viene posticipata al momento della risurrezione. Tanto vero che l'evangelista Marco tiene a sottolineare, nel momento in cui Gesù sta morendo sulla croce, c'è quel gesto, il gesto, leggo un attimo, vado a prendere, eccolo qua, capitolo 15 del Vangelo di Marco, quando Gesù grida al Padre, il testo continua dicendo: udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse a inzoppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Cioè Gesù in quel momento sembra quasi che non riceve questo aceto che gli viene offerto. L'aceto aveva lo scopo anche di attutire il dolore delle persone, era una sorta di anestetico. Gesù lo rifiuta e nel momento in cui gli viene qualcuno, gli offre da bere l'aceto, che è comunque frutto della vite, dà un forte grido e muore, quasi a portare a compimento quello che è stato detto nell'ultima cena. il frutto della vite lo verrà nuovo nel regno di Dio. C'è anche un altro richiamo in questo testo, ed è il richiamo di quella pagina del Vangelo che ci viene offerto dalla liturgia di oggi. Nella liturgia di oggi, se qualcuno di voi è stato alla celebrazione eucaristica, si richiama la doppia immagine che dice l'identità cristiana, e la doppia immagine è quella del vino nuovo e del vestito nuovo. Il vino nuovo, è lo stesso vino nuovo di cui Gesù parla qui nel Regno di Dio, rappresenta appunto la novità del Vangelo, una novità che però può essere accolta solo quando il mistero pasquale è completo. I credenti, i cristiani, non seguono solo un Gesù che ha sofferto ed è morto, seguono un Gesù che ha sofferto, morto ed è risorto. Solo il mistero pasquale completo permette al Vangelo di rivelare tutta la sua forza. Quindi a questo rimanda questa espressione. Grazie mille Mariella per la tua domanda. Sì, pronto? Pronto, buonasera, con chi parlo? Buonasera, sono Emilia da Roma. Mi dica Emilia. Dunque, io volevo dirle questo, che non ascolto sempre Radio Maria, insomma, saltuariamente. Comunque oggi mi è piaciuta molto la sua esposizione e volevo dire una cosa. Ho sentito che addirittura Pietro, no? Pietro l'ha tradito come hanno tradito tutti, ecco, questo fatto di sottolineare che tutti hanno tradito, quindi noi tutti tradiamo, e però voglio dire, quindi anche noi parteciperemo di questo perdono di Dio, insomma. Non so se ho esposto giusto la cosa. No, ho esposto molto bene, signora Emilia. Allora, rispondo a questa domanda, una domanda anche questa molto, molto preziosa, perché ci conduce nella modalità con cui l'Evangelista Marco presenta il mistero pasquale di Gesù. Una delle caratteristiche di questo Evangelista, ed è tipica di Marco, non troviamo la stessa cosa in Luca, non troviamo in Matteo, neanche in Giovanni, è la sottolineatura che tutti i discepoli falliscono. Se voi leggete il Vangelo di Marco, notate che non c'è un solo discepolo che si salva. E quando dico un solo discepolo, non parlo solo dei dodici, parlo di tutti coloro che seguono Gesù. Gesù arriva a celebrare, a vivere il mistero pasquale di passione e morte totalmente solo. Non c'è nessuno nel momento in cui lui muore ai piedi della croce in sintonia con lui. Dopo la sua morte salgono sul palcoscenico della storia alcune figure positive, che sono Giuseppe d'Arimatea, sono le donne, sono il centurione, ma notiamo come anche queste figure positive, soprattutto tra il discepolato, le figure femminili, alla fine falliranno. Cioè c'è una sottolineatura nel Vangelo di Marco che dice come l'uomo, il discepolo, da solo fallisce. Ma il suo fallimento non è un ostacolo all'amore gratuito di Gesù. Di fronte al fallimento l'uomo ha due possibilità: o accogliere l'amore gratuito di Gesù, prendendo coscienza di quanto questo amore sia grande, incommensurabile e forte nel ridefinire la propria identità, oppure chiudersi in se stesso e finire come è finito Giuda, chiudersi in se stesso e finire in una via di disperazione. Possiamo dire che Giuda e Pietro rappresentano nel Vangelo di Marco due modalità diverse di reazione all'esperienza del fallimento, ma in mezzo a Giuda e a Pietro ci stanno tutti gli altri dieci, tutti gli altri discepoli. Di fronte all'esperienza del fallimento tutti devono entrare, tutti la devono vivere, ma ci sono modalità di reazioni diverse, e queste modalità di reazioni sono in relazione, se volete, all'accoglienza dell'amore di Gesù. Solo chi sa accogliere l'amore di Gesù sa andare oltre. Mi ricollego anche, rispondendo alla domanda di Emilia, a una ricerca che ho fatto io stesso quando studiavo il Vangelo di Marco ed elaboravo la mia tesi di dottorato su questo Vangelo. diedi un titolo alla mia tesi un po' particolare, che all'inizio colpì la commissione che mi doveva esaminare, e il titolo è stato La nudità necessaria, cioè io sono convinto che la linea teologica del Vangelo di Marco vada in questa direzione, cioè tutti coloro che seguono il Maestro prima o poi devono fare l'esperienza di una spogliazione totale. Solo chi è totalmente spogliato può essere rivestito poi dell'amore di Cristo. Questa esperienza, a mio avviso, Marco la sente in modo particolare, cioè ha una sensibilità particolare per questo aspetto della teologia, perché lui stesso ha vissuto tale esperienza. Noi sappiamo dagli Atti degli Apostoli che Marco è stato uno dei discepoli della prima ora dell'Apostolo Paolo, però a un certo punto, scandalizzato per le pieghe che prendeva l'annuncio del Vangelo, ha tagliato la corda, si è ritirato, si è rifugiato nella comunità di Gerusalemme e ha causato anche tensioni tra Paolo e Barnaba, è diventato motivo di litigio. Probabilmente questo suo fallimento l'ha segnato così forte da ritornare nelle pagine del Vangelo e cogliere la narrazione dei discepoli del discepolato, dei dodici, da questo punto di vista, vedendo come in fondo tutti avevano fallito. Però il riscatto è stato possibile perché l'amore di Cristo ha tutti rimesso in piedi, dando a tutti la possibilità di riscattarsi. Quindi questo è un aspetto che effettivamente lei, signora Emilia, con la sua domanda ha colto e che è un elemento centrale nella narrazione di Marco. Grazie quindi per questa sua domanda. Sì, buonasera. Buonasera, con chi parlo? Sono uscito da Napoli. Mi dica. Lei nell'introduzione ha parlato della comunità essena e giustamente come molti studiosi hanno sostenuto e sostengono, Gesù era molto vicino a questa comunità, così come anche alla comunità di Qumran. Mi interessava sapere il suo pensiero in merito, cioè se questa tesi può essere sostenuta, anche perché chi sostiene che Gesù sia stato in un certo senso vicino alla comunità essena, abbia adottato anche il calendario esseno, che era differente insomma da quello ebraico lunare, e con il calendario esseno si risolverebbe anche il problema dei tre giorni e delle tre notti, insomma, della morte e della resurrezione di Gesù. Mi interessava sapere il suo parere in merito. Grazie mille per questa domanda, signor Piero, mi sembra, da Napoli. Allora, sì, nel Vangelo di Marco c'è questo indizio che alcuni rileggono come segno della vicinanza di Gesù, cioè quello dell'uomo che porta l'anfora d'acqua, come segno della vicinanza di Gesù alla comunità essena. Un indizio confermato dal luogo che la tradizione identifica come luogo del Cenacolo, perché in quella zona risiedeva la comunità essena di Gerusalemme, un indizio ulteriormente confermato dal calendario. Noi sappiamo che nei Vangeli la cronologia degli eventi pasquali, come diceva il nostro ascoltatore, dei sinottici, cioè di Matteo, Marco e Luca, è diversa da quella che viene presentata nel Vangelo di Giovanni. E sembra più vicina ai fatti la versione giovannea, e la versione giovannea segue un calendario diverso che è il calendario della comunità essena. Poi un ulteriore indizio è la posizione di Gesù nei confronti del Tempio, una posizione comunque molto critica ma non distruttiva, e la comunità essena andava in questa direzione. Quinto elemento che sembra avvicinare Gesù alla comunità essena è comunque l'inizio del suo ministero pubblico. Gesù inizia il suo ministero pubblico con un rito molto particolare, che è il rito del battesimo nelle mani di Giovanni Battista. Un rito questo che aveva un ruolo particolare nella comunità essena, anche se in un contesto, in una cornice diversa. Tutti questi elementi portano a dire che ci possa essere una vicinanza tra Gesù e gli esseni, anche se ci sono poi anche degli elementi di grande differenza. Gli esseni in genere vivevano una vita abbastanza separata dagli altri membri del popolo. Notiamo invece che Gesù nel suo ministero pubblico non vive questa separazione, anzi va incontro alle persone. I Vangeli che stiamo leggendo in queste mattine, nella celebrazione eucaristica, in questi giorni del tempo ordinario, nella celebrazione eucaristica, ce lo ripresentano a contatto con il lebbroso, a contatto con il paralitico, a contatto con i pubblicani, i peccatori, l'episodio di Levi. Quindi è un Gesù che assolutamente non prende la via della separazione dagli altri, ma li cerca, li insegue, vuole portare a tutti l'amore di Dio. Quindi ci sono degli elementi di vicinanza alla comunità essena, ma ci sono anche degli elementi di distinzione. Ecco, lei nel suo intervento faceva anche riferimento alla comunità di Qumran. Stiamo attenti a non identificare la comunità Qumran con gli esseni. Ci può essere un'espressione della comunità essena che era molto vicina a Qumran, però anche il movimento esseno aveva diverse sfumature, cioè non tutti erano isolati nel deserto, altri vivevano nella città, vicino alle città, pur conducendo una linea di vita molto particolare. Quindi, in sintesi, non posso, personalmente ritengo che questa vicinanza può essere qualcosa di plausibile, ha degli elementi di plausibilità, ma come sempre Gesù prende anche una strada che è molto propria. Lo stesso Benedetto XVI, nel suo primo volume di Gesù di Nazareth, ha evocato questa ipotesi di Gesù vicino alla comunità essena, sottolineando però anche lui questi elementi di diversità. Quindi ritengo che Gesù probabilmente alcuni elementi può averli attinti anche dalla comunità essena, o comunque li condivideva con loro, però la sua strada è molto più sbilanciata verso l'incontro con gli altri, verso l'unione tra l'uomo e Dio, qualunque sia la situazione in cui l'uomo si viene a trovare, al punto tale che l'amore di cui lui si fa dono nel gesto del pane e del vino è un amore condiviso con tutti, non solo con qualcuno, è condiviso con il traditore, con chi rinnega, con chi si scandalizza e con chi anche in quel momento gli è più fedele. Grazie mille, Piero, per la tua domanda. Pronto? Buonasera. Buonasera, sono Michela. Parlo. Michela da? Sono Michela, da Catanzaro. Da Catanzaro, bene. Senti, ne volevo chiedere, forse non so se sono in tema, comunque è una riflessione che faccio. Nel disegno di Dio c'era Gesù che doveva essere crocifisso, noi tutti dobbiamo portare la croce. Il senso di questo è essere fedeli a Dio, rimanere fedeli a Dio per entrare nel regno di Dio, cioè questo è il fine della di portare la croce, l'uccisione di Gesù. Il senso è la fedeltà a Dio. Certo. L'ascolto per radio, grazie. Va bene, Michela, ti ringrazio per questa domanda, cerco di rispondere. Allora, il disegno di cui Gesù si fa portavoce è quello di portare l'amore di Dio nella sua pienezza ad ogni uomo. Teniamo presente, Gesù è l'incarnazione di Dio nella nostra storia. Nella vita di Gesù il volto del Padre assume, Dio, ecco, il Padre assume non solo un volto, ma una concretezza di presenza in mezzo a noi. Tanto vero che il significato di Gesù, il primo nome che viene dato a Gesù è l'Emmanuele, il Dio con noi. Quindi la missione di cui Gesù è portavoce è proprio quella di essere il volto, la carne, il corpo di questo Dio con noi. Lei dice, mi diceva nella sua domanda, è nel disegno di Dio che Gesù vada in croce. Io su questo sarei più prudente, è nel disegno di Dio che Gesù riveli la pienezza del suo amore per gli uomini. Il fatto poi che vada in croce o in un'altra direzione è un'altra cosa, cioè nel momento storico in cui Gesù vive, la pienezza massima in cui rivelare l'amore di Dio era quello di donare se stesso fino all'estremo dono di sé. e la croce in quel momento era, si può dire, l'espressione più scandalosa, più umiliante, più dolorosa in cui l'amore poteva essere manifestato. Gesù nel suo ministero pubblico tiene sempre a evidenziare che Dio non rinnega nessuno. Ogni uomo è cercato l'uomo fedele, ma è cercato anche l'uomo infedele, è cercato il puro, ma è cercato anche l'impuro, è cercato colui che è considerato benedetto da Dio, ma anche colui che è maledetto da Dio. Ora, sulla croce salivano gli impuri, i maledetti, i lontani, coloro che erano giudicati dagli uomini tali. Teniamo presente che Gesù muore su una croce condannato non solo dalle autorità politiche, ma anche dalle autorità religiose. C'è una dichiarazione di maledizione forte nel segno della croce. Non solo, ma sul segno della croce, sulla croce, Gesù sperimenta anche l'abbandono totale, l'abbandono dei discepoli, l'abbandono della creazione, nel segno delle tenebre famose, l'abbandono del Padre, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quindi vive l'esperienza più radicale di lontananza da Dio. Ora, il fatto che Gesù abiti queste esperienze nella loro totalità è un modo per rivelare come Gesù si rende presente in qualsiasi situazione vissuta dall'uomo. Non c'è esperienza di lontananza che non possa essere abitata da Dio. Quindi è chiaro che in quel contesto la croce ha rappresentato il punto massimo in cui rivelare l'amore di Dio, proprio perché era il punto più estremo. E in questo noi possiamo dire era nella volontà di Dio. Però se Gesù venisse oggi, se Gesù si fosse incarnato al posto del primo secolo dello zero dopo Cristo, ma si fosse incarnato nel 2013, probabilmente l'espressione dell'amore di Dio avrebbe avuto dei risvolti altri, altrettanto scandalosi, altrettanto umilianti, non però sotto il segno della croce, ci sarebbe stato un altro patibolo, potremmo dire. Quindi direi che la volontà di Dio su Gesù è quello di che il suo amore si potesse manifestare nel modo più grande possibile, perché Gesù è l'incarnazione dell'amore del Padre e quindi è quello di cui lui è portavoce, il disegno di cui è portatore è proprio questo, esprimere al massimo grado l'amore del Padre, e tutto questo è stato espresso nella maniera più radicale e più spoglia possibile. Non a caso nell'ultima cena il corpo, cioè il pane e il calice, quindi il corpo e il sangue di Cristo, vengono donati dopo l'annuncio del tradimento. Gesù si dona a tutti in maniera incondizionata anche nel momento del grande rifiuto. Grazie Michela di Catanzaro per questa tua domanda. Pronto? Pronto, con chi parlo? Sì, sono Vincenza da Varese. Dal sud e passiamo al nord. Mi dica. Sì, però in questo momento mi trovo in Sicilia per un problema, ho una sorella in coma da 2 mesi e mezzo, comunque non è questo il tema, devo farle una domanda. Sì. Per quanto riguarda l'ultima cena che Gesù disse ai suoi apostoli, io sono venuto al mondo per questa missione, giusto? Continui pure. Ecco. Quando lui dice in verità vi dico che uno di voi mi tradirà, Pietro chiede, il primo è Pietro a chiedere, il primo mi sembra che sia Pietro a chiedere, io no signore, e in verità ti dico, Gesù rispose, in verità ti dico che tu mi rinnegherai 3 volte prima che il gallo canti, insomma. Ecco, ma Gesù però le disse a Pietro che loro avrebbero perso la fede e quant'altro, però le disse anche, io ho pregato per te, Ecco, la mia domanda è questa, ogni tanto mi viene in mente questa riflessione, domande, eccetera. D'accordo che era un piano, cioè che la missione di Gesù per salvare i peccati del mondo era questa, la sua venuta, diciamo, sulla terra, farsi uomo ed espiare per noi. Però io mi chiedo, come mai, sapendo che Giuda l'avrebbe tradito, come mai non ha fatto la stessa cosa per Giuda? Perché lui, finché è stato sulla terra, quegli anni in cui faceva i miracoli e quant'altro, cioè lui non sopportava la sofferenza, vedere la sofferenza degli altri, e in nome del Padre faceva anche i miracoli. Quindi io dico, come mai ha lasciato che Giuda, cioè che non ha detto la stessa cosa a Giuda? Va bene, per salvare, signora, diciamo, quest'anima, che anche Giuda aveva un'anima. Per quanto riguarda, io per esempio mi vedo il film di Zeffirelli, di Franco Zeffirelli. Allora, signora Vincenzo, la interrompo perché così lasciamo spazio anche agli altri. Sottolineo due cose, riprendo due cose del suo intervento. La prima cosa è quello che lei ha un pochino condiviso quasi di sfuggita, no? All'inizio del suo intervento diceva che si trova in Sicilia ad assistere la sua sorella in coma, no? E poi ha detto, beh, questo non c'entra con quanto stiamo dicendo. E invece è provvidenziale che lei ci ha detto questo, perché la sorella che lei sta assistendo sta vivendo quello su cui noi stiamo riflettendo. Ed è importante per noi avere coscienza di questo, no? È facile parlare di commentare dei testi scritti, è molto più disorientante trovarsi di fronte a un'esperienza come quella a cui lei ha accennato, dove questi testi scritti diventano vita, ma vita nostra, vita dei nostri familiari con cui viviamo accanto. Cioè il Signore chiede di vedere queste pagine anche all'opera in questi momenti qui. Quindi la ringrazio insieme agli ascoltatori che in questo momento ci stanno seguendo, affidiamo proprio sua sorella al Signore, perché in questo momento difficile, di dolore, di malattia, possa essere ricevere la consolazione di questa nostra preghiera condivisa. La seconda cosa è la parafrasi che lei ha fatto del testo. Ha fatto una parafrasi, possiamo dire, molto libera, però alla fine è arrivata ad una domanda ben precisa. Lei ha richiamato un passo che non è del Vangelo di Marco, ma di Luca, dove Gesù dice a Pietro, io ho pregato per te e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli. Ha richiamato questa espressione e poi ha posto una domanda provocatoria: perché Gesù non ha pregato anche per Giuda? La mia risposta è questa: Gesù non ha pregato solo per Pietro, ha pregato per tutti i dodici. A ognuno però ha detto un'espressione diversa. A Pietro si è rivolto con questa espressione, a Giuda si è rivolto con un'altra. Se noi riprendiamo in mano il racconto di Gesù nell'orto degli ulivi, al momento appunto in cui gli mettono le mani addosso, il racconto è molto esplicito, no? Perché ci dice che subito arrivò Giuda, uno dei dodici, con lui una folla con spade e bastoni. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo e conducetelo via. Appena giunto gli si avvicinò e disse: Rabbì, e lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Allora, se voi notate, il racconto di Marco è sobrio. Come a Pietro non dice niente, a Giuda non dice niente. Se voi andate in un altro Vangelo, prendete Matteo, prendete Luca, prendete Giovanni, nei confronti di Giuda c'è invece un dialogo. Un evangelista dice: come tu con un bacio tradisci il figlio dell'uomo? Un altro evangelista, Giovanni, gli dice: amico, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo? Cioè, ogni evangelista ha una sua modalità narrativa. Marco è molto sobrio e tiene a sottolineare, come vi dicevo prima, il fallimento puro e semplice degli apostoli, dei discepoli. Luca invece no, Giovanni no. Gli altri evangelisti tendono a sottolineare un dialogo tra Gesù e i discepoli. E nei confronti di Giuda non viene utilizzata l'espressione «ho pregato per te», questa viene utilizzata per Pietro, ma viene utilizzata un'altra espressione «amico», oppure «con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo». Gesù non rifiuta il bacio, Gesù lo accoglie quel bacio. E probabilmente è convinto anche che quella parola «amico» non sia una parola così detta per sbloccare la situazione, per dare un segnale ai presenti, ma è una parola detta col cuore, che probabilmente raggiunge il cuore di Giuda. Se voi andate a leggere il Vangelo di Matteo, Matteo spiega molto bene cosa succede dopo l'incontro tra Giuda e Gesù. Giuda, dopo l'incontro con Gesù nell'orto del Getsemani, si rende conto di che la situazione gli è sfuggita di mano. Forse lui voleva forzare la mano di Gesù ad esprimere in modo forte la potenza di cui era portavoce. Quando vede che la situazione non va in questa direzione, Giuda ha il coraggio di andare dai sommi sacerdoti per restituire quei soldi che gli hanno dato e per dire che quei soldi sono espressione di un sangue innocente che è stato tradito. È un'espressione, se volete, di fede da parte di Giuda. Il problema di Giuda non sta nel fatto che Gesù non ha pregato per lui, il problema di Giuda è che è talmente preso dal fallimento in cui è caduto che non riesce a risollevarsi e si lascia schiacciare fino al punto da suicidarsi. Su questo episodio ci sono dei commenti stupendi, commenti di autori contemporanei come Mazzolari ha una catechesi stupenda su questa espressione, no? Di Giuda come amico di Gesù, fratello di Gesù, ma anche di autori classici, pensiamo anche solo a Karl Barth, che dedica delle pagine stupende nella sua dogmatica ecclesiale riguardo alla figura di Giuda, e arriva a dire che Giuda alla fine l'ha voluta far finita perché sentiva che le sue mani erano sporche di sangue, ma l'opera di Giuda non è rimasta sospesa, perché comunque Gesù ha voluto riprendere l'annuncio del suo Vangelo da un'altra persona che aveva le mani sporche di sangue, e questa persona con le mani sporche di sangue era Paolo. E Barth arriva a dire che Paolo continua l'opera del discepolato proprio laddove Giuda l'aveva sospesa, per sottolineare che Gesù non ha paura delle nostre mani fallimentari, delle nostre mani sporche di sangue, cariche di peccato, cariche di fallimenti. Gesù ha paura di chi rifiuta la forza trasformante della sua grazia. Nulla è impossibile a Dio, Dio può trasformare ognuno di noi, ma l'importante è aprire questo cuore alla trasformazione. Giuda è caduto in una situazione di disperazione che non l'ha aiutato a risollevarsi. E questo è legato anche al mistero della libertà dell'uomo. L'uomo ha la libertà di accogliere o di respingere la forza trasformante della grazia, e di fronte a questo i gesti dell'amore di Dio non dico si fermano, però non possono forzare la mano dell'uomo, perché la libertà è sacra fin dai primi istanti della storia della salvezza. Grazie di cuore Vincenza quindi per questa sua domanda, e portiamo nella nostra preghiera la situazione di sua sorella in coma da 2 mesi. È pronto? Pronto, con chi parlo? Sono Francesco Saverio, chiamo da Brunate. Bene, mi dica Francesco Saverio, che bel nome. Grazie. Io le faccio innanzitutto i complimenti perché le sue trasmissioni sono stupende e vorrei che lei ricordasse ogni tanto dove poter approfondirle, so che ha scritto dei testi al riguardo. Sì. Quello che mi commuove, la scena che ha riportato stasera potremmo parlare all'infinito, ma quello che vorrei soprattutto sottolineare è l'amore di Gesù per Giuda. Cioè, Gesù lo copre veramente come una chioccia, sta coi suoi pulcini fino alla fine. E questo è un insegnamento per tutti noi, perché non solo lo chiama amico, ma fino alla fine lo protegge, lo difende. Io sono sicuro che l'avrebbero fatto fuori se Gesù diceva qualcosa, eh. Allora mi viene in mente il contrasto con noi, che a volte con la lingua, senza neanche conoscere bene o quantomeno sentire le persone, le diffamiamo, le calunniamo, le vendiamo, e mentre lui invece, che sapeva, fino alla fine crede in fondo e si aspetta che Giuda in qualche modo possa, in qualche modo, cioè gli offre la possibilità di salvarsi, ecco. E poi certo, quello che cambia è la fede, perché Giuda non credeva. Ma l'amore per Gesù per Giuda è una cosa che è proprio veramente un grande insegnamento per noi, che siamo pronti invece sempre a, con la lingua, aprire la spalla di Gesù, a approfondire, a svergognare delle persone che neanche in fondo forse conosciamo, che a volte solo per sentito dire le... Invece lui lo protegge fino alla fine, fino alla fine gli offre la, il suo amore e lo chiama amico. Cioè, questo è una cosa che a me tocca tantissimo il cuore. Certo, grazie mille Francesco Saverio per questa, per questa tua sottolineatura. Quanto tu dici c'entra, proprio va al cuore del Vangelo di Marco, del brano che abbiamo ascoltato. E Marco è probabilmente il testo più antico tra i quattro Vangeli che noi abbiamo tra le mani, e notiamo una profonda diversità tra questo testo e un altro testo come ad esempio il Vangelo di Matteo. Il Vangelo di Matteo ha tutta l'intenzione di mettere bene in evidenza chi è il traditore, cioè Giuda, e di spiegare che il tradimento di Giuda è dovuto a, ad altre sue debolezze, questa propensione per il denaro, questo trattenere per sé, lo ritroveremo questo elemento anche nel Vangelo di Giovanni, nel quarto Vangelo. Marco invece no, proprio come ci diceva il nostro ascoltatore, Marco si preoccupa di evidenziare che quello che succede a Giuda o a Pietro può succedere a tutti, può succedere a tutti, e questo lo fa tutelando completamente la persona, e questo tutelare la persona senza mai pronunciarne il nome, al punto tale che chi legge questa pagina non capisce, capisce solo alla fine chi è questo traditore, è un modo per dire che Gesù ha proprio questo atteggiamento, tutela i suoi fino in fondo, e non solo li tutela, ma dona pienamente se stesso a tutti i suoi, compreso chi in quel momento sta tradendo. E qui permettetemi una sottolineatura di un piccolo passaggio, al versetto 21 del capitolo 14, dopo che Gesù ha detto uno dei dodici, uno che intinge con me nel piatto mi tradirà, il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Dobbiamo stare attenti a quel guai, perché quel guai a quell'uomo per il quale il figlio dell'uomo viene tradito non è un'espressione di maledizione, noi spesso la intendiamo così, come un'espressione di maledizione che Gesù rivolge al traditore, no, è un'espressione di dolore, sarebbe meglio tradurla con ai, cioè è un'espressione che indica il dolore di Gesù nei confronti di una persona che si sta mettendo in una situazione veramente oscura, veramente di notte, di buio, e Gesù partecipa quasi al dolore, a quello a cui si sta esponendo il traditore, quindi questo conferma quanto il nostro ascoltatore ci stava dicendo. Francesco poi ci chiedeva anche un suggerimento per continuare ad approfondire, sì, come diceva lui, ho scritto un commento al Vangelo di Marco, lo potete trovare in tutte le librerie, basta che dite, chiedete appunto il commento di Don Giacomo Perego al Vangelo di Marco, lo penso che nelle librerie cattoliche religiose sia disponibile. Ovviamente in questo commento non c'è tutta la ricchezza che viene dalle vostre domande, se dovessi commentare oggi il Vangelo di Marco dopo tutte queste trasmissioni che stiamo facendo a Radio Maria, probabilmente molte cose sarebbero aggiunte, perché veramente la ricchezza che è apportata dai vostri interventi è davvero grande, oltre a rendere queste pagine proprio vicine alla nostra vita. Grazie mille Francesco per il tuo intervento. Pronto? Pronto, buonasera. Sono Francesco. Sì, un altro Francesco da Salò, bene. Più arricchisco la mia conoscenza della redenzione di Cristo, più mi sento irrobustire la mia fede. E lei concorre in modo straordinario a questo fenomeno. E io questa sera invece desidero farle una domanda, forse infantile, ma perché Gesù è venuto in terra solo 2013 anni fa? Perché? Una domanda infantile. No, non è infantile. Caro signor Francesco, la sua è una domanda per nulla infantile, una domanda su cui i grandi padri della Chiesa, i teologi antichi e contemporanei, da Agostino a San Tommaso, hanno discusso, si sono dibattuti, ed è una domanda a cui è difficile trovare una risposta. Da un lato si evoca normalmente il misterioso disegno di Dio, ma è un modo per non rispondere, dall'altro invece si evoca a volte la pedagogia della storia della salvezza, e mi spiego, forse era necessario, cioè la tempistica legata all'attesa del Messia, no? Che era attesa da molti secoli, doveva essere preparata dalle pagine della storia della salvezza. Quelle pagine che noi leggiamo nella Sacra Scrittura e che coinvolgono i patriarchi, Abramo, Giacobbe, Giuseppe, i giudici, i re di Israele, le grandi pagine dell'esilio con la presenza dei profeti, le grandi lotte dell'identità che hanno accompagnato l'epoca dei Maccabei, le grandi domande della fede che troviamo evocate nei Salmi, lo smarrimento che troviamo in alcune pagine di Coelet o della Sapienza, indicano il cammino dell'uomo di fede che solo poco per volta si rende disponibile ad accogliere un messaggio, una rivelazione di Dio. Faccio un esempio, prendiamo ad esempio la fede nella risurrezione. Se Gesù fosse venuto al posto di 2013 anni fa, 3000 anni fa, non so come sarebbe stato accolto il mistero grande della sua risurrezione. La fede nella risurrezione si sviluppa molto più avanti nella storia della salvezza e sono state necessarie diverse riflessioni attestate nelle pagine bibliche su questo, cioè mi sembra che una spiegazione umana, quindi quando dico umana, molto limitata, molto parziale, può essere anche scorretta, per carità, è quella che Dio ha avuto una sua pedagogia nel preparare l'uomo ad accogliere il mistero di Cristo, e questa pedagogia ha reso necessaria una storia, che è la storia della salvezza. Ecco perché noi non possiamo leggere la vicenda di Gesù senza prendere tra le mani le grandi pagine dell'Antico Testamento. Ricordiamo anche nei grandi episodi della risurrezione, come le pagine dei discepoli di Emmaus, come Gesù ha cercato di illustrare il suo mistero di passione, morte e risurrezione, richiamando le pagine della storia della salvezza, le pagine dell'Antico Testamento. Quindi era necessario tutto un percorso di preparazione, e questo percorso di preparazione nel disegno di Dio è giunto a un suo compimento, è giunto a un suo momento di grazia, quindi adatto alla manifestazione del suo volto, 2013 anni fa. Questo penso possa contribuire ad una eventuale risposta alla sua domanda. E con questa risposta ringrazio di cuore quanti sono intervenuti: Mariella da Ragusa, Emilia da Roma, Piero da Napoli, Michela da Catanzaro, Vincenza da Varese, Francesco Saverio da Brumate e Francesco, l'ultimo nostro ascoltatore, da Salò. Grazie di cuore per questi vostri interventi che hanno veramente arricchito la nostra trasmissione e un cauro augurio a tutti voi, l'augurio di vivere questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani vivendo noi per primi la comunione nei nostri ambienti di vita. Una benedizione e a risentirci al prossimo mese. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.